Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica a quanti ci ascoltano. Benvenuti alla nostra puntata di Incontri. Oggi abbiamo come ospite il professor Alfonso Fuggetta. Buongiorno professor Fuggetta. Buongiorno. E abbiamo iniziato con As and Them, un brano dei Pink Floyd. Pink Floyd, come mai? Cosa le ricordano? Beh, sono stati uno dei protagonisti delle mie passioni musicali negli anni 70, quando ero al liceo, quando scoprì tutta la musica inglese progressive, quindi gli Yes, i Pink Floyd, i Gentle Giant. La seconda generazione dopo i Beatles, in pratica. Esattamente. Per me fu una scoperta incredibile, soprattutto questo disco Dark Side of the Moon. Fu una specie di shock incredibile rispetto alla musica che ascoltavo prima. Una grande innovazione nella musica. Assolutamente, assolutamente. Fu veramente un incontro con qualcosa di straordinario per me. Perché il professor Fuggetta si occupa di innovazione, è il presidente, amministratore delegato del CEFRIEL, che è il centro di innovazione, ricerca e formazione del Politecnico di Milano nel campo dell'information technology. Come si diventa amministratori di un centro di questo tipo? Beh, innanzitutto si studia tanto. Mi sono laureato al Politecnico, ho iniziato a lavorare, ho lavorato un pochettino in impresa, poi fui selezionato per diventare ricercatore presso questo centro, che nasceva proprio quando io fui assunto nell'88. Ho vinto anche il concorso da professore al Politecnico come associato in quegli anni, e ho sempre lavorato un po' in università, un po' presso il CEFRIEL. E un 7-8 anni fa, quando il mio predecessore, il professor Decina, che era stato il fondatore del CEFRIEL, decise di iniziare anche nuove attività, altre attività, io ho preso il suo posto, diciamo, avendo seguito un po' tutta la gavetta, il percorso classico. Ecco, che cos'è, come si struttura un centro di questo tipo? Ovviamente all'interno del Politecnico, però proiettato sulla ricerca, proiettato verso le imprese? Sì, diciamo, è nato come idea da parte di alcuni colleghi del Politecnico, il professor Decina, il professor Carassa, che era il papà delle telecomunicazioni al Politecnico di Milano. In realtà è una struttura dal punto di vista amministrativo completamente separata, quindi autonoma, è una società con sortile a responsabilità limitata e quindi vive completamente sui propri ricavi, sulle proprie attività, non ha finanziamenti né alcun tipo di supporto né da parte del Politecnico né da parte di strutture pubbliche. La sua missione è quella di complementare, se vogliamo, le attività fatte in università. Tra i soci non c'è solo il Politecnico, c'è anche la Statale Bicocca e l'Università di Insubria, concentrandosi più sull'applicazione dei risultati della ricerca per fare nuovi prodotti, nuovi servizi. Quindi cerchiamo di fare un po' da trade union tra mondo della ricerca e mondo delle imprese, che è uno dei problemi di cui spesso si parla, di cui spesso ci si occupa, avendo un approccio molto applicativo, molto progettuale. L'idea è veramente di costruire nuovi prodotti, nuovi servizi per le imprese, per aiutarle ad essere più competitive. Ecco, questo soprattutto nel campo delle comunicazioni, delle telecomunicazioni, delle tecnologie applicate alle comunicazioni? Originariamente i principali clienti del CEFRI erano le grandi aziende di telecomunicazioni, di informatica, che vivevano qui nel territorio lombardo proprio alla fine degli anni Ottanta. Col passare degli anni ci stiamo sempre più orientando nell'utilizzare l'informatica e le telecomunicazioni per tutte le aziende del Made in Italy, se vogliamo, comunque, che presenti sul territorio, che hanno bisogno di usare l'informatica, le telecomunicazioni, o per migliorare i propri prodotti, oppure per ottimizzare i servizi e i processi. Adesso abbiamo appena annunciato insieme ad Ainese il giubbetto per Color Bag. Questo è un caso in cui l'information technology viene usata per innovare in maniera radicale un prodotto classico, di punta peraltro, del Made in Italy. Ecco, perché l'information technology ormai è diffusa e deve diventare qualcosa di fondativo, direi, un po' in tutti i settori, perché la comunicazione è alla base dell'innovazione e innovazione ci vuole in tutti i settori, sia a livello di prodotto sia, come diceva, a livello di processo. Su questo la strada da fare può essere ancora molta, deve essere ancora molta. Ma direi che si sta sempre più prendendo, sta sempre più aumentando la consapevolezza che queste tecnologie sono importanti e giocano un ruolo vitale nell'innovazione di prodotto e di processo, appunto come lei diceva. Ci sono sicuramente, come è un po' tipico dell'Italia, delle grandi disomogeneità. C'è qualcuno che è già partito, sta già facendo delle cose molto interessanti, c'è ancora molto da fare per portare queste tecnologie e queste innovazioni, diciamo, alla grande platea di tutte le imprese, specialmente quelle medio-piccole. Ecco, magari dell'Italia parleremo un po' nella seconda parte. Vorrei però tornare un po' alla sua esperienza, esperienza di professore, di ricercatore, perché tra la sua esperienza c'è anche una conoscenza molto vicina, molto diretta, molto frequente della California, di quella che è la Silicon Valley, che è un po' il mito dell'innovazione sotto tanti aspetti, sotto l'aspetto della ricerca ma anche sotto l'aspetto imprenditoriale. È veramente un mito la Silicon Valley? Beh, io ho passato parecchie estati come professore, visiting professor all'Università della California Irvine, che è un po' più sotto, vicino a Los Angeles. Diciamo che comunque il clima che si respira in California sicuramente è veramente bello, perché oltre ad essere un posto molto piacevole dal punto di vista ambientale, c'è una grande dinamicità, cioè c'è una grande voglia di fare, di costruire, di sviluppare. Non c'è paura, non c'è la paura, il terrore di sbagliare o di fallire. Se uno fallisce perché ci ha provato, ecco, questa è una grande differenza rispetto spesso alla realtà italiana. Lì viene premiata la voglia di fare, la voglia di costruire, la voglia di creare qualcosa di nuovo, e questo sicuramente è estremamente affascinante. Ecco, nel suo blog, perché lei ha un blog come ogni innovatore che si rispetti, c'è una sua foto sopra il Grand Canyon, mi sembra. È Canyonlands, nello Utah. Ah, nello Utah. È Canyonlands, nello Utah, sì. È un posto straordinario. E io credo che sono appassionato di quelle zone, Utah, Nevada, la parte proprio vicino appunto allo Utah, l'Arizona, il Colorado, hanno dei paesaggi e dei luoghi che sono, credo, unici. Allora, diamo qualche consiglio. Ma guarda, quest'estate ho fatto un giro che secondo me è bellissimo, perché sono tornato con la famiglia appunto da quelle parti. Siamo partiti da Los Angeles, ci siamo fermati a Las Vegas perché appunto è sulla strada, ma poi in realtà siamo andati a Bryce Canyon, Zion, Canyonlands, Monument Valley, Grand Canyon, e sono dei posti, credo, unici. Questo scenario che si vede su una foto appunto del mio blog è una terrazza a strapiombo per oltre 300 metri su un'ansa del Colorado, in un paesaggio lunare che veramente toglie il fiato. Ecco, quindi qualcosa, un amore anche per la natura da parte sua. Tra l'altro il suo blog parla di riflessioni su tecnologia, ma anche su politica, costume e società. Cioè, la tecnologia non è qualcosa di separato in fondo dalla società. Assolutamente no, assolutamente no. Se pensiamo per esempio a tutto il tema del rapporto tra giornali, blog, comunicazione, democrazia, queste cose sono strettamente collegate, quindi certamente ci sono degli aspetti prettamente tecnologici che devono essere considerati, ma poi la tecnologia entra nella nostra vita, la nostra vita è fatta appunto di tutti questi aspetti, e quindi credo, per quello che adesso, cercando di essere assolutamente poco presuntuoso, ma mi piace anche commentare i fatti della vita o dire quello che penso su fatti della vita, fatti della politica, che direttamente o indirettamente poi sono collegati con la mia vita professionale, con quello che faccio. Per certi aspetti un po' la vita italiana è un po' disarmante rispetto a certe realtà americane, certe realtà forse appunto più dinamiche, un po' meno polemiche, un po' più concrete. Ma credo che forse a un primo livello è così, a un secondo livello la sensazione che provo di più io è adesso non voglio usare la parola rabbia, che mi sembra eccessiva, però ecco, la frustrazione, perché potremmo fare tantissimo. Cioè io sono stato recentemente in Cina e è chiaro che quella è una realtà in grandissima crescita, no? Una grandissima dinamicità, però stando là poi mi sono accorto di quante cose belle che abbiamo qua, certo, dal punto di vista della cultura, dello stile di vita, della dinamicità, della freschezza, della creatività. E la cosa che forse colpisce di più è questo, cioè il fatto che in realtà avremmo dei talenti, come si usa dire, no? Rifacendosi, certo, alla frase evangelica, dei talenti straordinari che tante volte sprechiamo. E quindi la sensazione è più quella di frustrazione, del dire: se ci mettessimo di buzzo buono, quanto potremmo fare? Non le è venuta la tentazione di restare nella Silicon Valley? Sì. E come mai è tornato indietro? ma se devo essere proprio sincero fino in fondo è stata soprattutto anche una scelta della famiglia, cioè la famiglia non voleva trasferirsi, io sono stato fortemente tentato di restare all'Università della California Irvine, c'era una position disponibile. Beh, magari da grande quando... sì, la prossima vita. La prossima vita. Comunque anche in Italia si può fare molto, cioè il Politecnico di Milano è una delle realtà. Io credo di sì, ma se pensiamo anche il CEFR è una realtà che quest'anno farà più di 11 milioni di euro di ricavi completamente sul mercato, ci sono poche realtà in Europa che fanno cose di questo tipo. Essendo completamente sul mercato, abbiamo aperto una sede negli Stati Uniti, abbiamo due persone adesso negli Stati Uniti, siamo in crescita, abbiamo fatto il 2009, è stato l'anno con i migliori risultati nonostante la crisi, facciamo utili che reinvestiamo nelle nostre attività, già questo credo che sia una cosa molto positiva e molto bella, ed è un segno appunto di quello che dicevo prima, tutto sommato lo stiamo facendo. Se ci fosse un ambiente, un clima veramente più positivamente impegnato su questi temi, chissà cosa riusciremmo a fare. E poi in Italia forse non c'è il Grand Canyon, ma ci sono le Dolomiti. Ah, assolutamente, no, ma ci sono tanti posti bellissimi. Basta andare sul lago di Como ed è già stupendo anche quello. Ma no, è chiaro che poi l'Italia ha tante meraviglie e tante cose uniche. Ecco. Basta avere la voglia di scoprirle, avere la voglia di andare avanti, avere la voglia anche di rischiare. Assolutamente, credo che sia questo l'aspetto essenziale, cioè bisogna veramente metterci l'anima, buttare il cuore oltre l'ostacolo, come si usa dire, e poi si possono fare le cose. Questo non ho il dubbio. E insegnare ai giovani che rischiare è possibile e che forse è anche conveniente. Sì, ogni tanto i nostri giovani appunto hanno... forse anche giustamente un po' di depressione o di paure o di, come dire, senso un pochettino di frustrazione, perché a volte si ha la sensazione che sui giovani non si investa. Incontri. Bentornati a quanti ci ascoltano, ancora buona domenica e buon pomeriggio e questo nostro incontro di oggi con il professor Alfonso Fuggetta, professore ordinario di ingegneria del software presso il Politecnico di Milano e amministratore delegato del CEFRI, il centro di innovazione, ricerca e formazione dello stesso Politecnico. Nella prima parte abbiamo parlato un po' dell'esperienza del professor Fuggetta, della sua esperienza in America, del suo giudizio anche sulla realtà italiana in cui si potrebbe fare molto e purtroppo anche le condizioni di scenario, di contesto sono un po' complesse. Che cosa si può fare? Indubbiamente il Politecnico fa molto per la formazione, per l'educazione, per l'innovazione, però ecco, i giovani si trovano poi di fronte a una società un po' complessa, un po' difficile. Ma credo che uno dei principali motivi di frustrazione è a volte la sensazione di non essere voluti sul mercato delle imprese. Cioè le imprese non scommettono sui giovani, ma questo è quello che io poi percepisco dialogando via il blog. Le imprese non scommettono sui giovani, danno soltanto posizioni temporanee, non permanenti. Se uno va all'estero in realtà guadagna di più e quindi sicuramente c'è un problema di un mercato del lavoro che a volte, non troppo spesso direi, non premia, non valorizza i giovani, i nostri talenti, i più bravi che tutte le persone. Non è solo una situazione congiunturale, siamo in un periodo, in un anno certamente di difficoltà, le no, imprese... questo è un problema che si trascina già da qualche anno, direi c'è stato ai tempi di internet, del grande boom di internet, ci fu una esplosione diciamo di segno opposto e poi ci fu lo scoppio della bolla e adesso siamo passati in una situazione diciamo di radicalmente diversa che è un pochettino anche condizionata da, se vogliamo in ultima analisi, da anche politiche pubbliche. Faccio un esempio: molte delle gare che noi facciamo nella pubblica amministrazione sono gare a ribasso dove il costo è l'aspetto più preponderante. Certo. Questo lo capisco perché deriva da motivazioni di bilancio, però poi è chiaro che se il costo è la condizione preponderante, le imprese tendono a competere sul costo. Questo a catena e si ripercuote sulla qualità dell'offerta, sulla qualità delle risorse umane, sugli stipendi che si offrono alle persone e quindi di fatto comprime la qualità. Ecco, ma la bolla di internet, questa bolla all'inizio degli anni 2000 è stata descritta come una bolla finanziaria. È stata in qualche modo anche una bolla tecnica o tecnologica, oppure internet è comunque continuato a crescere? Direi che è esattamente questo secondo questo, la situazione di questo secondo commento che lei faceva, cioè forse noi abbiamo dato o si sono avute delle aspettative troppo veloci o troppo, diciamo, sul breve periodo, e quindi nel momento in cui non le si vedeva realizzare, diciamo, da parte di molti c'è stata la sensazione di fallimento, certo, di delusione rispetto a queste mancate realizzazioni. Nel tempo, in realtà, stiamo vedendo che tutto ciò, o gran parte di ciò che era stato promesso, si sta realizzando. Cioè l'interconnessione, l'e-commerce, tutte queste cose ormai stanno diventando un fattore di vita quotidiana. Ecco, proprio nella vita quotidiana, l'Italia rispetto agli Stati Uniti è molto indietro? Ma per certi versi direi no, per altri versi forse sì. Ecco, ci sono, come al solito, come dicevo prima, l'Italia è fatta di grandi chiaroscuri, no? Situazioni a macchia di leopardo. Sicuramente ci sono alcuni servizi che uno trova negli Stati Uniti che non trova in Italia, ma poi nella gran parte delle nostre, per esempio la banda larga per certi versi funziona a Milano come, ma in qualche caso anche meglio. Ecco, noi abbiamo avuto qualche problemino per esempio ad avere la banda larga nel nostro ufficio americano. In Italia abbiamo una connessione migliore, quindi è vero nel centro di Milano, però insomma abbiamo una connessione migliore, quindi c'è da fare. Sicuramente abbiamo del terreno da recuperare. Ovviamente gli Stati Uniti o anche altri paesi sono degli esempi con delle punte di eccellenza che noi non abbiamo ancora raggiunto, però non siamo abissalmente lontani. Certo. Abbiamo anche delle nostre punti di forza. Ripeto, a volte la frustrazione è quello di dire: se avessimo una voglia come sistema paese di lavorare su questi temi, potremmo fare tantissimo. Ecco, una delle cose che stanno cambiando è proprio l'informazione. C'è una crisi dell'editoria, dei quotidiani, si legge di meno, i giovani leggono meno, non solo per effetto di internet, ma anche per effetto di un costume che sta cambiando. Come vede il futuro dell'informazione? Sarà veramente un'informazione tutta sull'iPad, sull'iPhone, su questi strumenti, oppure ci sarà ancora uno spazio per la riflessione, per la carta stampata, il vecchio inchiostro? Se posso permettermi, io non li contrapporrei in questo modo. Cioè, io leggo molto sull'iPad e sull'iPhone, e secondo me anche argomenti di approfondimento. È un diverso mezzo, un diverso strumento che in realtà secondo me ha una potenzialità enorme, perché rende più facile la fruizione di informazioni. Ci sono dei siti dove, per esempio, che mi permettono di leggere oggi notizie lunghe, cioè certo, testi lunghi di approfondimento, che magari mi sarebbe difficile accedere o utilizzare tramite i mezzi normali. Devo andare a comprare qualcosa in edicola, in libreria. Io ho scaricato l'ultimo libro di Umberto Eco sul mio iPad e l'ho letto andando in giro. L'ha anche pagato? Cioè, assolutamente, l'ho comprato. Ecco, perché c'è questo fattore, il fatto che un po' la genesi di internet è gratuito, e quindi convincere le persone che per avere qualcosa su internet bisogna pagare qualcosa è quasi un rompere un tabù. Però è anche vero che se guardiamo cosa sta succedendo nel campo sull'iPhone o sull'iPad, sui nuovi sistemi, l'acquisto impulsivo e l'accesso a pagamento a servizi è esploso. Allora il vero punto è: senza avere mondi chiusi o monopoli, no, di cui a volte si ha paura, su queste nuove tecnologie, su queste nuove piattaforme, il vero punto è offrire valore all'utente. Se l'utente vede un valore che non ha modo di ottenere in altro modo, l'utente paga. L'esplosione degli acquisti impulsivi, cioè degli acquisti, diciamo, fatti al momento su questi dispositivi mobili, lo testimonia. Poi magari alla fine del mese uno si pente un po' quando vede la fattura. Questo che gli in arriva effetti bisogna stare attenti, perché a volte, no, ci si fa prendere la si mano. Si aggiunge euro su euro, si arriva a cifre un po' complesse. Però appunto, guardando a un futuro in senso positivo, le applicazioni continuerà a crescere l'innovazione. A un certo punto uno può pensare: ma adesso che cosa si può inventare? Una volta che abbiamo avuto l'iPad, cosa può esserci dopo l'iPad? Ma sa, il bello dell'innovazione è proprio questo, che poi alla fine ci sono tante sorprese. Adesso raccontavo ad alcuni miei amici una esperienza che ho fatto proprio in quegli anni in cui ho iniziato a lavorare al Cefriel, che per certi versi fa ridere, detto da me. Nell'88-89 venne un mio collega e mi disse: senti, vuoi iniziare a usare la posta elettronica? Io dissi: cos'è la posta elettronica? Lui mi disse, me lo spiegò, e io dissi: ma cosa ce ne facciamo? Abbiamo il fax. No, e quindi che serve la posta elettronica? Ecco, questo per dire che no, di fronte a un'innovazione o a qualcosa che usiamo, non ci aspettiamo di trovare cose nuove, e in realtà continuano ad arrivare. di fronte all'innovazione a volte ci si chiede ma che serve, e poi in realtà usandola scopriamo degli usi, delle possibilità straordinarie. Ecco, c'è sempre un po' questa rincorsa, quindi è chiaro che stiamo andando verso un mondo sempre più mobile, sempre più fatto di intelligenza distribuita e diffusa, e quindi ci aspettiamo, avremo cose sempre più, come dire, che interagiscono con noi nel mondo reale. Ci sono tante possibilità, ecco, che esploreremo. Torniamo un attimo all'Italia. L'Italia è un po' spiazzata, soprattutto sul fronte dell'innovazione, dei prodotti, ma tutto viene realizzato all'estero. L'Italia è importatrice netta di tutti gli strumenti per comunicare. Su che cosa può ancora cercare di eccellere l'Italia? Ma diciamo, ci sono diversi aspetti. C'è tutto il mondo delle produzioni, diciamo, tradizionali, o non tradizionali nel senso vecchie, ma nel senso dei settori più noti del Made in Italy, dall'alimentare al legno, all'abbigliamento, al meccanico, al manifatturiero, dove l'ICT, l'Information Technology, può giocare un ruolo vitale, sia per innovare i singoli prodotti, sia per cambiare radicalmente i mezzi, i modi di distribuire, di diffondere, di vendere e di promuovere i prodotti non tecnologici. Però c'è anche un ruolo nel campo delle tecnologie. Si dice sempre che l'Italia ha perso tutti i treni, no? Che ormai l'Olivetti è morta, che certo. Quindi la realtà è che sono morti certi treni sono passati, non li abbiamo presi, ma ci sono treni che partono in continuazione. C'è il mio collega, il professor Giorgio De Michelis di Bicocca, che dice sempre che l'Apple è una società italiana che è nata per caso in California. Ecco, ma è la tipica essenza di una commistione tra design, creatività, tecnologia, che non è propria, diciamo, di dire, degli americani, certo. Dovrebbe essere più una caratteristica nostra. Ecco, forse bisogna avere il coraggio o la consapevolezza di non guardare a questi settori in modo rassegnato, in modo convenzionale, perché poi se guardiamo la storia dimostra che cose che davamo per scontate, per ovvie, per consolidate, non lo sono più state. Ecco, ma per una ricerca avanzata di questo tipo forse ci vogliono grandi organizzazioni, non si può partire da piccoli laboratori. Per certi versi è vero, io credo che non è così scontato, non è così vero che piccolo è bello. Noi ci siamo illusi per troppo tempo che piccolo è bello sia a livello industriale, da tutti i punti di vista. Cioè, no? Che si potesse fare innovazione senza ricerca, in fondo. Primo. In secondo luogo, che le dimensioni non contino, mentre invece poi il fatto di avere una scala, una possibilità di investimento, un volume di attività conta ed è significativo. Che cosa consiglierebbe a un giovane che deve scegliere l'università? Di scegliere con passione e di lavorare con grandissima voglia, perché anche se poi al momento non vede o ha paura di non trovare uno sbocco, in realtà tutti i giovani bravi che si sono laureati al Politecnico, per esempio, se guardo la mia esperienza, hanno avuto poi delle esperienze estremamente positive. In Italia o all'estero? In Italia o all'estero. Poi, diciamo, i bravi e la strada la trovano. Prima o poi tornano anche. E prima o poi, speriamo, sempre più. grazie al professor Alfonso Fuggetta, il amministratore delegato del CEFI, del Centro di Innovazione, Ricerca e Formazione del Politecnico di Milano, che ci ha fatto compagnia questo pomeriggio. Ringraziamo anche Peter Bascapè in regia e Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma tecnologicamente avanzato può essere ascoltato e riascoltato in podcast sul sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica a tutti.